Funzione della preghiera. Vedendo ora l'anima che non può da sé sola giungere alla dolcezza desiderata della conoscenza e dell'esperienza, e che quanto più si eleva, tanto più Dio è distante, si umilia e si rifugia nella preghiera dicendo: Signore, che sei venuto solo ai puri di cuore, io cerco con la lettura e con la meditazione quale sia e come si possa ottenere ciò che è la vera purezza di cuore, per i portenti, per mezzo di essa, conoscere almeno in parte. Cercavo il tuo volto, Signore, il tuo volto, Signore, cercavo. Ho meditato a lungo nel mio cuore, e nella mia meditazione si è sviluppata una fiamma e si è accresciuto il desiderio di conoscerti sempre più. Mentre mi spezzi il pane della scrittura, tu ti fai conoscere nella frazione del pane. E quanto più ti conosco, tanto più desidero conoscerti, non già nella scorza della lettura, ma nella conoscenza che viene dall'esperienza. E non chiedo ciò, Signore, per i miei meriti, ma per la tua misericordia. Confesso infatti di essere un'indegna anima peccatrice, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Dammi dunque, Signore, un pegno della futura eredità, una goccia, almeno, di quella pioggia celeste con cui spegnere la mia sete, poiché arto d'amore. Gli effetti della contemplazione. L'anima, con questi e altri simili infuocati eloqui, infiamma il suo desiderio, mostra l'effetto raggiunto e chiama con questi incantamenti il suo sposo. Il Signore, i cui occhi si posano sui giusti e i cui orecchi sono attenti alle preghiere, non aspetta che queste siano terminate, ma interrompendo a metà il corso dell'orazione, si affretta a presentarsi e a venire incontro all'anima che lo desidera. Circonfuso dalla rugiada di una dolcezza celeste, e cosparso di unguenti preziosi. Ricrea l'anima affaticata, nutre quella che ha fame, impingua quella arida e le fa dimenticare le cose terrene. La vivifica mortificandola mirabilmente con l'oblio di sé, e la rende sobria, inebriandola. E come in certi atti carnali l'anima è vinta a tal punto dalla concupiscenza della carne da perdere ogni uso della ragione, facendo diventare l'uomo un essere quasi del tutto carnale, così al contrario, in questa suprema contemplazione, i moti carnali sono in tal modo superati e assorbita dall'anima, che la carne non contraddice in nulla allo spirito, e l'uomo diventa un essere quasi del tutto spirituale.